Ora qui evidentemente non si può lenziare in qualsiasi momento perché è territorio militare e non è un istituto neutrale sempre, ma nel periodo coloniale fu ancora meno neutrale. Dentro sono ancora osservate tutte le cose che riguardano il periodo coloniale, sono più di, questo lo devo leggere, sono 36.000 tra mappe, fotografie, percorsi sviluppati, fatti dall'Istituto Geografico Militare nel periodo coloniale, specialmente nell'ultimo periodo coloniale, quello sotto il fascismo, quindi una diretta collusione con il periodo fascista. E fu fondata a Torino, poi arrivò qui a un certo punto, all'inizio del Novecento, e c'ha queste particolarità che uno cambiò i nomi, e questa è una cosa importante, insomma, cambiò i nomi delle città, delle regioni, dei luoghi della Somalia, dell'Eritrea e dell'Etiopia, un'italianizzazione che potete immaginare già sulla cartina, insomma, i nomi delle varie città, dei vari luoghi venivano cambiati proprio togliendo, diciamo, la cultura locale, come se sostanzialmente venisse impedito la lingua sotto certi aspetti. Ma soprattutto forniva le mappe per i bombardamenti, sulla popolazione civile, proprio mappe popolarizzate, più affidate possibili, e per la penetrazione dell'esercito italiano nelle varie regioni non ancora conquistate, quindi un contributo fattivo sostanzialmente, tant'è che i dipendenti, insomma, diciamo, dell'istituto geografico militare erano direttamente impiegati all'interno dell'apparato militare italiano. E quindi, insomma, cioè, un contributo fattivo, per esempio fornire le mappe per questi bombardamenti sull'Ifrit sulle varie città etiopi, e soprattutto sulla parte nord dell'Etiopia, quella da Issimia, la parte del Tigray, diciamo, e la parte dell'Eritrea, forniva mappe che ancora non erano state fatte, diciamo, in una maniera accurata, perché il territorio ancora non mappati da questo punto di vista. E fornì questo supporto attivo, e dentro ci sono ancora appunto questi 36.000 oggetti, nella stragrande maggioranza fotografie, però anche tutte le mappe militari dell'epoca, dicendo, tra l'altro, proprio per sotto certi aspetti immettere questa cultura della conquista e del possedimento dei territori, sempre l'Istituto Geografico Militare stampava queste cartoline come se fossero proprio dei souvenir, oppure venivano mandate, come ora si può mandare le cartoline da Parigi e via dicendo, venivano mandate a giro con, innanzitutto con l'italianizzazione del nome, e poi con foto di colonie, via dicendo, come se queste terre fossero sostanzialmente italiane e da sempre. E questo è un aspetto, diciamo, secondo me, tra più, indipendentemente dal discorso dell'istituto geografico militare, l'italianizzazione o in generale, insomma, il cambiamento dei toponimi nella lingua del conquistatore, penso sia una delle cose più danno l'idea, insomma, del colonialismo, ecco, di un paese, della conquista di un paese rispetto all'altro. L'Italia, almeno nel periodo fascista, non ha mai conquistato interamente l'Etiopia. Loro facevano queste cartine, sembrava fosse tutta l'Etiopia, sembrava fosse tutta conquistata sostanzialmente, ecco, perché già mettendoci nomi italiani, poi non è che si limitavano alla cartina, no, le foto e via dicendo, e quindi era una sorta, anche questa, una fake news, diciamo, ecco, da questo punto di vista, la propaganda di guerra sostanzialmente.